Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata e naturalmente a tutti, buon inizio settimana. Non c'è solo l'aumento delle multe, sono tante le novità in arrivo, anzi già arrivate nei giorni scorsi con gradualità per gli automobilisti italiani. Tante novità riguardano le patenti di guida perché aumentano le categorie, passano da 9 a 15 e non ci sarà più un sistema a scatole cinesi per cui una potrà comprenderne altre. Per ogni categoria bisognerà sostenere un esame. E anche i minorenni, questa è una novità molto importante, che usano il motorino o la minicar, avranno una vera e propria patente, saranno soggetti alla decurtazione dei punti in caso di infrazioni pesanti. E poi, altre novità, cambiano le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di patente o con un documento non adatto al veicolo che conduce. In alcuni casi si rischia anche sul piano penale. A complicare il quadro c'è un anomalo periodo di transizione che è iniziato il 19 gennaio scorso con l'entrata in vigore di molte norme, e ricorderete anche che abbiamo dedicato una trasmissione all'aumento delle multe, l'entrata in vigore di molte norme, dicevamo, che seguono direttive europee. In questi giorni alcuni automobilisti si trovano dunque in situazioni particolarmente delicate, in primo luogo gli autisti e gli autotrasportatori, ma anche gli aspiranti neopatentati che si vedono congelate le date degli esami di guida. E allora, tutte le novità per gli automobilisti oggi intanto sono illustrate nell'inserto patenti e multe in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Oggi le illustriamo anche noi con i nostri esperti, rispondendo come sempre alle vostre domande. Potete intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24, scrivendoci al 349 238 6666 all'indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it, su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter l'hashtag è @salvadanaio24. Qua, tra tutti questi indirizzi, speriamo che non se ne aggiungano più altri, perché altrimenti facciamo un sacco di confusione. Eccolo qua, arrivato il nostro Maurizio Caprino, che si mette, adesso ti mettiamo anche meglio il microfono perché non è ben sistemato. Maurizio, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. No, invece è perfetto, guarda, penso che non dobbiamo spostarlo, lo vedevo un po' messo in una posizione anomala. Ho già preannunciato appunto il tema del quale parleremo e tra l'altro ho anche annunciato che c'è questo specialone questa mattina allegato al Sole 24 Ore che hai coordinato appunto quasi interamente, praticamente interamente, ed è davvero ricco di notizie ed informazioni di servizio. Gli altri ospiti che questa mattina ci aiuteranno a capire qualcosa di più rispetto a tutte queste novità in arrivo: Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Municipale di Roma Capitale. Dottor Ancillotti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi tutti. E più tardi ci collegheremo tra un po' anche con il mondo delle autoscuole, con Emilio Patella, segretario nazionale di UNASCA, l'Unione Nazionale delle Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica, perché peraltro anche per le autoscuole ci sono degli adempimenti da rispettare proprio in vista di questa rimodulazione anche degli esami di guida che molti autisti appunto o provetti autisti devono sostenere. Costi in più per le autoscuole, devono rivedere anche l'organizzazione delle proprie flotte automobilistiche, per cui è davvero un mondo che sta cambiando e su quale si stanno imbattendo tutte queste novità in maniera non trascurabile. Prima di entrare nel merito di tutto questo, rapidissimamente la borsa. La raccontiamo in maniera proprio rapida perché oggi davvero le borse del vecchio continente non vanno né di qua né di là, poco mosse. Parigi, Francoforte, Londra e Madrid. Un ascoltatore chiede se può avere la chiusura della seduta ad Hong Kong. L'Hang Seng di Hong Kong ha avuto un rialzo dello 0,39%. Milano più 0,46% scatta grazie agli acquisti su tutto il comparto bancario. Corre anche oggi Monte dei Paschi e recupera almeno un po' della settimana nera che ha vissuto. La settimana scorsa c'è stato il via libera da parte dell'assemblea degli azionisti dell'ok appunto per i Monti Bond, c'è stato anche il via libera da parte della Banca d'Italia. Alessandro Profumo, il presidente dei Monte dei Paschi, auspica un socio finanziario di lungo periodo per sostenere appunto la banca in questo momento. Insomma, tante notizie che stanno oggi vivacizzando gli acquisti sulle azioni di Rocca Salimbeni. Bene anche A2A più 4,40%. 1,48, Mediolanum più 3,28 sui massimi da 3 anni, Mediobanca più 1,91, Banco Popolare più 1,52, in discesa Prismian perde 2 punti, STM meno 1,40, Autogrill meno 1 punto. Una buona asta dei titoli di Stato, stamattina il Tesoro ha assegnato 4 miliardi di euro di CTZ con un rendimento in calo all'1,43% ai minimi da marzo 2010. E domani, tra l'altro, c'è un'asta molto importante di botta a 6 mesi, 8 miliardi, e vedremo appunto se sul fronte tassi questo contenimento continuerà. Lo spread tra BTP e Bund è sotto i 250 punti base. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, le novità su patenti e multe, ma soprattutto sulle patenti. Che sarebbe stata la data del compleanno a ricordarci la scadenza della patente, già lo si sapeva. Sono anche tante altre, però, le novità portate dal 2013 agli automobilisti, entrate in vigore dal 19 gennaio scorso. Le regole sono dettate dall'Unione Europea attraverso la terza direttiva patenti, ma un complesso garbuglio di norme e di iter ha portato a creare uno strano periodo di transizione che durerà fino ai primi giorni del mese di febbraio. Gli aspiranti neopatentati hanno visto, ad esempio, congelarsi fino al mese prossimo le date dei loro esami di guida. Una scelta della motorizzazione preoccupata dei probabili intoppi nell'avvio delle tante novità. Tutte le autoscuole, infatti, dovranno ora consegnare nuove card plastificate, simili a quelle già in vigore, ma con caratteri impressi al laser e provviste di firma digitale del possessore. Dal 19 gennaio al 1 febbraio, chi ha la patente di una sottocategoria e guida un veicolo che appartiene a una sottocategoria superiore, rischia sanzioni penali, esattamente come se guidasse senza patente. A partire dal 2 febbraio, invece, si passerà a una semplice sanzione amministrativa di 1.000 euro, più la sospensione della patente da 4 a 8 mesi. Un rischio che interessa in particolare anche gli autisti autotrasportatori che hanno superato i limiti di età e che sono tenuti a procurarsi ogni anno, fino al 68esimo compleanno, una deroga annuale da presentare insieme al documento. Meglio controllare che non sia scaduta. Sono anche aumentate le categorie di patenti, giunte a quota 15. Per guidare un ciclomotore o una microcar si dovrà conseguire, a partire dai 14 anni, la nuova patente AM. Anche i minorenni dovranno fare i conti con la decurtazione dei punti. E se prima gli studenti delle scuole medie superiori potevano partecipare gratuitamente ai corsi tenuti dalla propria scuola, ora gli istituti non sono più obbligati a organizzarli. Un costo in più, quello dell'autoscuola, per le famiglie. E quindi allora attenzione intanto al vostro compleanno, perché potrebbe essere arrivato il momento, e quel giorno ve lo ricorderà, di rinnovare la patente. Detto questo, uno non si può distrarre un attimo, Maurizio Caprino, che arrivano una montagna di novità per il rilascio della patente, perché devo dire, forse perché anagraficamente adesso non ne ho bisogno, non ho figli che vogliono prendere il motorino e quant'altro, devo dire che questo dossier di questa mattina mi ha... No, non spaventato, ma incuriosito un bel po', perché veramente di notizie ce ne sono altre. Io mi ero limitata al racconto, te lo ricorderai, con la puntata inizio anno sull'aumento dell'entità economica, appunto, delle multe, ma qua vedo che c'è veramente una rivoluzione con la quale abbiamo a che fare. Sì, è una rivoluzione, diciamo una rivoluzione indifferita, nel senso che le norme sono state partorite dall'Unione Europea nel 2006, tuttavia la stessa Unione Europea si è resa conto di tutto quello che cambiava e quindi si è data un periodo congruo, un periodo di 6 anni, quindi aveva già fissato nel 2006, aveva già fissato che il D-Day sarebbe stato il 19 gennaio 2013 e quindi, una preparazione molto molto lunga, molto accurata, che però non è, questi tempi non sono bastati, perché poi in Italia siamo riusciti anche a fare il pasticcio dell'entrata in vigore. In ritardo, infatti, e infatti è quello di cui parleremo questa mattina, questo famoso periodo transitorio nel quale le auto scuole sono bloccate, non possono fare gli esami e quanto altro, ma in ogni caso l'obiettivo è fare in modo che anche quella italiana sia una versione europea di patente di guida. Diciamo che quella italiana era già abbastanza una patente europea rispetto a quella di altri paesi. Adesso c'è stata un'armonizzazione più completa, più penetrante. Noi dove ci siamo dovuti adeguare soltanto per alcune questioni, tante questioni per la verità, ma altri paesi tipo la Gran Bretagna hanno dovuto fare molto molto di più. Il problema vero è che però la sicurezza non è proprio garantita, nel senso che è vero che adesso c'è una maggiore severità, per esempio una patente non assorbe più quelle inferiori, quindi insomma se avete la patente B non potete più guidare moto. Ovviamente qui stiamo parlando di chi prende la patente da oggi in poi, perché i diritti acquisiti da chi ce l'aveva già, quindi noi possiamo tranquillamente andare ancora in motocicletta, come se io scorazzassi con da Centaura per le città. Esatto, il problema però è che per una guida veramente sicura e adeguata ai tempi di oggi occorrerebbero ben altri test di abilità, occorrerebbe anche una maggiore conoscenza del veicolo, perché oggi i comandi sono un'infinità e sono purtroppo diversi da veicolo a veicolo, quindi oggettivamente siamo ancora lontani, è un passo avanti ma siamo ancora lontani dalla meta. Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Municipale di Roma Capitale, anche per la vostra categoria un inizio d'anno sicuramente rocambolesco. Che cosa dovete fare adesso anche per controllare la regolarità di chi guida, andare in giro con il dossier del Sole 24 Ore di questa mattina per capire con esattezza, a seconda chiaramente della dell'infrazione commessa, quale tipo di sanzione comminare? Insomma, anche per voi un bel fermento, immagino. Sì, sicuramente sì, il dossier di stamani mattina sicuramente ci aiuterà. Sì, diciamo che la difficoltà principale, soprattutto per noi organi di polizia stradale, deputati al controllo, è quello proprio di definire con la massima possibile precisione i cosiddetti diritti acquisiti. Il dottor Caprino diceva giustamente, tutte le nuove regole si applicano, seppur con questo pastrocchio legislativo dell'entrata in vigore differita, comunque dal 2 di febbraio sicuramente sarà completamente entrata in vigore, ma certamente tutti i diritti acquisiti da coloro che erano titolari di patenti in data precedente continuano a essere titolari di questi diritti. Il problema è che nel tempo, dal recepimento della prima direttiva comunitaria sulle patenti, che è del 1980, si sono succeduti più atti comunitari, poi diversamente recepiti con tempi non sempre coincidenti con le intenzioni del legislatore comunitario, e in conseguenza di quando si è ottenuto la patente discendono le possibilità di guidare più o meno determinati veicoli. Quindi occorre proprio avere una serie di tabelle di equipollenza che in parte il Ministero ha provato a riepilogare, ma non è un'operazione semplice, che consentiranno quindi all'operatore su strada di districarsi al meglio su quali veicoli un determinato titolare di patente conseguita in una certa data potrà condurre. Quindi una situazione abbastanza complicata sul piano proprio della individuazione dei comportamenti corretti e poi delle correlato. Certo, sul piano pratico, ecco, proprio per sintetizzare, infatti Maurizio Caprino voleva aggiungere qualcosa. Ecco, poi c'è un'importante eccezione al principio dei diritti acquisiti di cui abbiamo parlato, ossia i patentini per ciclomotori, quelli vanno a morire ciascuno alla propria scadenza. Quindi man mano che scadranno i patentini in mano alle persone che si chiamano CIG, certificato di idoneità alla guida, verranno sostituiti da patenti AM vere e proprie. Allora, leggevo, ne abbiamo già parlato, ma magari focalizziamoci per un attimo su questo aspetto che mi sembra particolarmente importante, che dal 19 gennaio al 1 febbraio chi ha la patente di una sottocategoria e guida un veicolo che appartiene ad una sottocategoria superiore rischia sanzioni penali, ma è appunto un pericolo circoscritto passato il 1 febbraio? E dunque, diciamo che come tutte le depenalizzazioni si pone il problema di cosa fare dopo, nel senso che quando si commette l'infrazione nel mentre è un reato, ovviamente si deve per forza innescare un processo. Mi fai un esempio per capire che cosa vuol dire avere la patente di una sottocategoria e guidare un veicolo che non dà diritto a farlo? Il caso classico è quello del sedicenne che guida una moto potente, perché sappiamo tutti che i sedicenni, ecco, questa è una regola che non è cambiata, i sedicenni possono prendere al massimo la 125. Se prendono una patente, una moto superiore, loro hanno già una patente di categoria A, però è una A1, quindi una sottocategoria. Se guidano un'altra moto che prevede la A2 o addirittura la A completa, che si prende a 21 anni normalmente, commettono un'infrazione. E se vengono allora pizzicati in questo lasso di tempo, che cosa rischiano? Allora, rischiano un processo, rischiano di finire sotto processo, non diciamo però le condanne, perché in verità poi non saranno condannati. Diciamo questa bizzarria del diritto, che deve essere astratto, che quindi è una macchina che deve andare da sé, porta al fatto che le forze dell'ordine devono istruire, devono si dice notiziare il pubblico ministero. Il pubblico ministero deve aprire il fascicolo, però poi arriverà un giudice che, siccome appunto si andrà, la cosa poi si svolgerà oltre il 2 febbraio, oltre il 2 febbraio non sarà più un reato, ma sarà una semplice, tra virgolette, infrazione amministrativa da 1000 euro, come abbiamo detto prima. A quel punto, per principio del diritto penale, si potrà invocare appunto il fatto che oggi il trattamento è più favorevole, però a quel punto non si potrà neanche applicare la sanzione amministrativa, perché non ci saranno i tempi. Quindi alla fine è un'impunità, è una bizzarria del diritto italiano, e ce la teniamo così. Però un'ammenda molto salata prevista in questo frangente c'è, perché leggo da 2.257 fino a un massimo di 9.000 euro più il fermo amministrativo del mezzo? Sì, però comunque dovrà essere comminata dal giudice, e sarà comminata in un momento in cui, cioè oltre il 2 febbraio, tutta la questione sarà bypassata. Esatto. E vabbè, insomma, allora, da una parte è anche giusto, perché che senso ha avere una disciplina che dura 20 giorni di tempo, ma neanche 10 giorni? Non ha nessun senso, e difatti non è voluto, non è stato un errore voluto dai ministeri dell'interno e delle infrastrutture, che hanno curato tutta l'istruttoria. È stato un problema scaturito dallo scarso coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha portato al Quirinale, alla firma del Quirinale, un decreto correttivo, l'ha portato dopo le vacanze di Natale, prendendosi tutte le vacanze di Natale come ferie, appunto. E purtroppo, siccome dove non è espressamente stabilito, tutte le norme italiane entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, è così. Allora, vedo già un sacco di domande da parte degli ascoltatori alle 349-238-6666. Adesso naturalmente analizzeremo caso per caso, se ce la facciamo a farli tutti quanti. C'è un ascoltatore, questo per la verità volevo trattarlo nella seconda parte del programma: non avete detto che le scuole non fanno più il corso per i ragazzi per prendere appunto la patente per il ciclomotore? Tra l'altro questo è un aspetto che io ho scoperto questa mattina. Dottor Ancillotti, magari qui mi può aiutare lei, anche se tra l'altro fra un po' abbiamo già la prima pausa. Sarà che io non vado a scuola dalla preistoria, ma devo dire che anche il mio assistente Marco, che è molto più giovane di me, non si ricordava di questo obbligo che veniva ottemperato all'interno delle scuole, di fare dei corsi appunto di preparazione per la guida di un ciclomotore. Adesso in ogni caso queste scuole non avranno più l'obbligo di farlo, bisognerà appunto che questi ragazzi vadano in autoscuola obbligatoriamente. Sì, questa è una conseguenza, se si vuole, indiretta dell'introduzione di una categoria di patente specifica per la guida di ciclomotore a 2 o 3 o 2 o 3 ruote, pure quadricicli a motore leggero. In precedenza, per l'ottenimento del certificato in unità alla guida era possibile per le scuole organizzare dei corsi di preparazione, oppure era un'opportunità consentita anche a organismi pubblici, alcuni comuni lo avevano fatto. Adesso la patente N è a tutti gli effetti una patente come le altre, quindi per ottenerlo occorrerà seguire dei corsi presso le scuole guida, oppure presentarsi presso di essi come privatisti, ma comunque occorre seguire i normali criteri che presiedono al rilascio normale patente di categoria superiore. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, blem, blem, blem. Non è che sia proprio un grandissimo reato andare a 100, allora dipende su quale strada si percorre con questa velocità. Comunque, Maurizio Caprini, comunque il limite per i neopatentati, anche ecco, i neopatentati sono tra virgolette condannati ad andare a 100 all'ora, anche dove si potrebbe andare di più, quindi in autostrada e sulle strade extraurbane principali, per i primi 3 anni di guida. Questa è una delle poche regole, pochi vincoli che non cambiano, così come non cambia la potenza massima guidabile nel primo anno dal conseguimento della patente B. Quindi, qual è la potenza massima? Sì, 70 kilowatt al massimo, quindi poco meno di 100 cavalli, e soprattutto un rapporto potenza tara di 50, il massimo di 55 kilowatt per tonnellata. È un aspetto che peraltro, anche se chiaramente ne va della sicurezza di guida dei nostri ragazzi e tanto altro ancora, in realtà le famiglie a volte contestano, perché chiaro, loro dicono, all'interno dei nuclei familiari in cui c'è un'auto sola un po' più grande di cilindrata, non è che possiamo fare questo acquistone anche per il ragazzo, però tanto più con la crisi, però bisogna che conviviamo anche con con le regole, sì, appunto, di sicurezza. Però è paradossale, perché poi ci si lamenta di inesperienza dei non patentati e così di fatto li si costringe a star fermi per un anno. Allora, io sto guardando forse con un po' di superficialità tutti questi cambiamenti, nel senso che, non essendo una direttamente interessata, non vivo sull'auto, per cui chiaramente quando arriverà il momento in cui devo fare il nuovo rinnovo della patente mi preoccuperò anche delle regole nuove, devo dire, avrò una patente nuova, quindi non è che devo preoccuparmi più di tanto. Ci sono molti ascoltatori invece che ci stanno dicendo che stanno andando letteralmente in confusione per tutte queste novità che stanno arrivando. Adesso cercheremo di aiutarli. Serena, per esempio, su Twitter ci scrive: ho la patente B dal 95, vorrei prendere la A completa, cosa devo fare? Allora vado di nuovo al dottor Ancillotti, dirigente della Polizia Municipale di Roma Capitale. Allora, dunque, se puoi ripetere, avevo una patente A dal 1995. No, alla B dal 95, quindi è quella, credo, ordinaria, insomma, che abbiamo tutti quanti, no? Credo di averla anch'io, a meno che non mi sia sbagliato, non abbia capito male. E quindi, ma vorrei prendere la A completa. A che cosa serve una A completa, intanto? La A completa praticamente abilita alla guida di tutti i motocicli, senza limitazioni. Le categorie A, diciamo la famiglia A, che è la famiglia che normalmente abilita, la famiglia di patenti che abilita alla guida dei motocicli, si divide attualmente in tre diverse categorie, non più sottocategorie. Come dicevate bene all'inizio, non è più possibile un passaggio da accesso graduale a accesso limitato, cioè praticamente per passare da un'ex sottocategoria ad un altro occorre assolutamente risostenere un esame, fare l'esame, salvo che non si sia conseguita la patente A da meno di 2 anni prima dell'entrata in vigore della riforma. Se la signora ha patente B di quel tipo, per conseguire, per guidare motocicli diversi da quelli conducibili con patente di categoria 1, deve sostenere l'esame. E allora adesso, tra un po', Serena, ci collegheremo anche con chi vive all'interno del mondo delle autoscuole, appunto delle scuole guida, e sentiremo quali sono i suggerimenti pratici che le possono dare per poter fare questo esame con serenità. Andiamo ad Antonella da Brescia, la prima ascoltatrice di oggi. Bene, abbiamo già cominciato con tutte donne al volante, pericolo costante, dicono, ma non è vero, vero Antonella? Buongiorno. Buongiorno innanzitutto a tutti. Io portavo la mia testimonianza, una figlia di 18 anni e mezzo, e quindi da quando ha deciso di prendere giustamente la patente ci si è aperto un mondo comunque che non è molto giusto. Ancora una volta ci sobbarchiamo troppo noi famiglie di spese esagerate per conseguire una patente, dove c'è comunque una situazione di monopolio, perché la famiglia si deve rivolgere alle scuole. Le dico solo questo, che per sostenere l'esame di teoria privatamente, cioè senza voler accedere alla scuola, almeno a Brescia si fa dell'ostruzionismo, cioè la famiglia porta avanti le pratiche ma con una lentezza pazzesca, perché ti obbligano come ad accedere attraverso la scuola, spendendo molto di più. E questa è già una cosa che secondo me non è giusta. Quanto secondo sta spendendo aspetto, per tutta questa operazione, Antonella, mi dica, perché io non ho idea. Allora, una patente completa a Brescia conseguita con l'autoscuola anche per la teoria costa intorno ai 1000 euro. E dico questo, certo. 1000-1200 euro. Invece, se la parte, diciamo, di teoria viene sopportata dal ragazzo che si prepara da solo attraverso i test in internet o libri comprati, eccetera, da solo in librerie che costano la metà della metà di quelli che ti vendono in autoscuola, e le pratiche portate avanti dai familiari che si presentano ai vari uffici o dal ragazzo stesso, eccetera, c'è un risparmio di 300 euro. Le dico solo che anche il certificato che richiede il medico è altissimo. Il costo dei certificati medici è una cosa che non si può dire. Il confronto, cioè, è altissimo rispetto a quello che effettivamente viene dato, perché non certo è che è una trascrizione di cose ovvie. Ecco, allora, spiegatoci tutto questo, Antonella, cosa voleva chiederci? Ho finito. Per quanto riguarda invece l'aspetto della guida vera e propria, mia figlia, proprio perché ha sostenuto l'esame di teoria l'8 di novembre privatamente, poi ho dovuto per forza andare in una scuola per farle fare certo le guide, insomma, tuttora lei non ha ancora potuto conseguire l'esame. E comunque i prezzi delle guide le nostre autoscuole di Brescia non le rilasciano attraverso la rete online e nemmeno per telefono, perché hanno questo ordine, Le dico solo questo, quindi il consumatore deve poter andare tutti a passare da tutte le scuole e chiedere il prezzo e scegliere ovviamente il prezzo più adeguato. Certo, c'è la crisi, certo, e ci aiutano in questo c'è modo. C'è anche concorrenza anche in questo settore, dunque c'è insomma chi pratica magari degli sconti. Allora Antonella, io la ringrazio, vorrei sentire subito Emilio Patella, segretario nazionale dell'UNASCA, l'Unione Nazionale delle Autoscuole e Studi Consulenza Automobilistica. Poi parleremo anche del tema che ci siamo prefissati, abbiamo già articolato abbastanza nella prima parte della trasmissione. Ha sentito quello che ha raccontato la nostra ascoltatrice, Patella? Sì, ho sentito. Ma è vero che non rilasciate pubblicamente magari i costi delle guide, bisogna venirvi a trovare fisicamente, quindi fare direttamente un preventivo da voi, mi servono 10 guide per poter conseguire la patente, lei quando c'è anche concorrenza in questo ambito, non ci sono dei costi standard? Standard assolutamente no, anche perché è vietato. Ci può essere un costo più o meno simile, perché è dato da quello che è il costo di mercato del gasolio, dell'auto, eccetera. E i costi sono pubblici, le tariffe delle scuole sono pubbliche esposte in autoscuole, sono depositate presso la provincia che l'ente di controllo. E quindi probabilmente Antonella è stata un po' sfortunata con le scuole di Brescia che non volentieri appunto danno queste informazioni telefonicamente. Detto questo, per voi, per il mondo delle autoscuole, appunto, che tipo di impatto stanno avendo tutte queste novità delle quali stiamo parlando questa mattina, dottor Patella, appunto segretario Patella, la patente nuova, vabbè, a voi non interesserà tanto il fatto che sia di tipo plastificato, insomma. Ma di quali altri adempimenti vi state caricando in questo momento? Dietro quel pezzo di plastica ci sono tantissimi adempimenti per noi. Intanto le patenti moltiplicano di numero da 7, diventano 15. In realtà gli spostamenti sono più tecnici che non sostanziali, però questo costringe le autoscuole a duplicare il numero di veicoli che devono obbligatoriamente avere nel parco veicolare. Tanto per fare un esempio, prima in autoscuola era obbligatorio una moto, spesso le autoscuole ne avevano di due modelli, oggi sono obbligatorie 4 moto e volendo soddisfare l'esigenza di tutti i cittadini ne dovremmo avere 8 per ogni autoscuola. Quindi è un aumento di costi incredibile, che poi evidentemente ricade sul costo della patente, certo. Di quanto sarà ricaricato questo costo? Ce lo dica già, così almeno ci togliamo questo dente. È difficile calcolarlo, anche perché la dotazione veicolare diventa obbligatoria entro il 30 di giugno e quindi bisogna un po' vedere cosa si va a reperire sul mercato. Per esperienza, quello che ricade sul consumatore è molto meno di quello che si carica l'autoscuola, perché al di là di quello che si dice, il numero di autoscuole è veramente spropositato rispetto all'offerta, quindi la concorrenza è serratissima. Prima sentivo parlare di 1000 euro, attenzione che ci sono sul mercato offerte, a mio avviso anche subdole, di patente complete a 300 euro. Anzi, invito a diffidare da quando il prezzo è troppo basso, perché o c'è una truffa o c'è poca professionalità, molto spesso tutte e due le cose, con in più evasione contributiva. Ecco, che è un altro aspetto, appunto, non sicuramente secondario. Sa com'è che tante volte veramente magari i nostri ragazzi vanno a prendere vanno a fare le loro lezioni, chiaramente per passare la teoria e la pratica, già molto preparati, nel senso che sanno già guidare l'auto, per cui io non dico che è una buona cosa che una patente venga rilasciata a 300 euro, magari non facendo in maniera corretta il corso per l'insegnamento di tutta la teoria. C'è da dire che sicuramente rispetto a quando ci sono andata io, che mio padre non mi aveva mai fatto guidare, forse le cose oggi sono un po' cambiate. Detto questo, tra 300 euro, che sicuramente, Maurizio, non so cosa ne pensi, forse indice di scarsa professionalità. È uno sproposito, tra l'altro si trovano spesso su internet, sono offerte che si trovano anche su determinate auto di autoscuole che girano anche nelle grandi città, le si vede, quindi anzi sono piuttosto aggressive nella pubblicità. Di queste bisogna diffidare, non solo per la questione dell'evasione contributiva, eccetera, eccetera, ma anche per una questione proprio di serietà della preparazione. Cioè io, per esempio, dubito che vengano fatte tutte le guide che sono obbligatorie. Spesso, anzi, vengono incontro a gente che non vuole, non ha l'interesse, perché considera la patente come una carta d'identità, un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione. Non è così, la patente è una cosa seria. Diceva un ministro che non ho mai amato particolarmente, ma su questo aveva ragione, la patente è come un porto d'armi, quindi bisogna conseguirla al meglio e dico oltretutto che anche una patente presa bene non basta per guidare bene un'auto. Ecco, quindi... forse non abbiamo risposto però alla domanda dell'ascoltatrice di prima. Ci ha raccontato che sua figlia, a parte insomma tutte le corrette polemiche anche sui costi, perché in questo frangente è un po' pesante anche nel bilancio familiare dover spendere tutti questi soldi per questo, però ha fatto la teoria, gli esami di teoria l'8 novembre, la pratica, io adesso ancora continuo a fare la distinzione di quando avevo 18 anni, la guida e la pratica, appunto, la pratica, rimasta, la teoria e la pratica, esatto. Quando potrà fare l'esame di guida? Beh, l'esame lo dovrà fare, lo dovrà fare anche presto, entro 6 mesi, altrimenti dovrà rifare tutto da capo, ma la cosa più importante in questo caso, che ha a che fare con le nuove regole, è che avrà una patente già di quelle nuove, nel senso che è stato proprio chiarito dal Ministero delle Infrastrutture che non c'è un cosiddetto regime transitorio, quindi anche chi ha fatto domanda per ottenere la patente prima del 19 gennaio, che è quel D-Day che abbiamo detto prima, sarà assoggettato a tutte le regole nuove qualora consegua la patente dal 19 gennaio in poi. Siccome appunto questa la figlia della nostra ascoltatrice la patente la conseguirà come tutti subito dopo l'esame di pratica, essendo l'esame di pratica dopo il 19 gennaio, ricadrà in pieno nelle nuove regole. Ecco, però in questi giorni gli esami di guida sono stati bloccati, se non ho capito male, ecco, infatti, perché appunto tutto il sistema è caduto in questo regime transitorio. E quindi una parte del ritardo che lamentava l'ascoltatrice è probabilmente proprio dovuto a questo. Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Eh sì, però con la patente giusta, mi raccomando, attenzione, perché quest'anno le novità per tutti i neopatentati sono tante, ma anche per i vecchi patentati. A proposito di chi è un po' avanti con l'età, Massimo Ancillotti, Polizia Municipale di Roma Capitale, qualche ascoltatore un pochino attempato, glielo dico con grande affetto, ci scrive, ma insomma per gli ultra ottantenni cambia qualcosa? No, non cambia niente, anzi forse c'è una semplificazione per gli ultra ottantenni, è previsto l'obbligo di ovviamente di confermare la validità per gli ultra ottantenni, la semplificazione introdotta questa volta ancora prima che entrasse in vigore il decreto legislativo 59, quello di recepimento della riforma patenti, consente di sostenere, di ottenere la certificazione medica non necessariamente nella commissione medica provinciale, ma in quella presso il medico monocratico, diciamo il medico singolo dello USL locale. Quindi in questo senso c'è una semplificazione. E per le patenti per i mezzi agricoli, Ancillotti, rimango da lei. Per le macchine agricole, è preparato sull'argomento? Sì, per le macchine agricole c'è stata una singolare variazione, che peraltro non sappiamo bene quando entrerà in vigore. Io sostengo che sia già in vigore dal 19 gennaio, ma molti ritengono che questa novità di cui parlo tra un attimo sia invece riferita al 2 di febbraio. Sostanzialmente la guida di macchine agricole che fino al 19 gennaio, macchine agricole e macchine operatrici, che fino al 19 gennaio, al 18 gennaio era punita dal codice della strada solo con sanzioni amministrative, peraltro pesanti, e si diversificava in genere dalla guida senza patente che invece era punita con sanzioni penali. Ebbene, dal 19 gennaio o dal 2 di febbraio acquista rilevanza tanto penale. Ormai oggi è il 28 gennaio, per cui siamo quasi a febbraio, no, perché diciamo dal 2 diciamo, febbraio acquista rilevanza penale, quindi chi non ha la patente prescritta, cito l'articolo, ma ormai non è per giocare all'otto, 124, insomma, non ha la patente prescritta da questo articolo, incorrerà nelle sanzioni, in specifiche sanzioni penali. Tra l'altro poi per la guida di macchine agricole una legge di fine anno ha previsto, non tanto per la guida su strada ma per l'uso, l'obbligo futuro di un piccolo patentino, lo chiamo così, che è più che altro legato alla tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, cioè accertare la dimestichezza, la capacità di per conseguirlo cosa bisogna fare queste persone? Bisognerà attendere un futuro decreto ministeriale che disciplinerà le modalità, però non è che è necessario per la guida su strada. Per la guida su strada occorre avere la patente prevista dal codice della strada, la cui mancanza dalla data che abbiamo detto sarà punita con le stesse sanzioni penali che il codice prevede per la guida. Quindi agricoltori, antenne dritte, perché ci sono delle novità anche per voi. Allora, mamma mia Marco, quante telefonate mi hai messo, ma io ho 5 minuti di tempo, non ce la facciamo. Andiamo a Beatrice da Verona. Buongiorno, rapidissima Beatrice, grazie. Anni 69, vorrei comprarmi una city car o una patente B. Quindi una city car, una piccolissima micro utilitaria per circolare tranquillamente in città. Sì, perché invecchiando. Vabbè, ma la sento lo stesso, bella, bella tranquilla, pimpante. Quindi, insomma, cosa deve fare lei per guidare tranquillamente quest'auto? Grazie. Chiedo aiuto a Emilio Patella. Se questa signora venisse in un'autoscuola gestita da lei, che suggerimenti le darebbe? Sentito poco la domanda, deve allora, guidare un'auto? La signora ha 69 anni, lei dice invecchiando vorrei guidare in città un'auto più pratica, una city car, deve fare qualcosa di particolare? Dipende da cosa intendiamo per city car, se è una un'autovettura comunque niente, ha la sua patente di categoria Non so, immagino una smart, che cosa può essere? Neanche, sì, no? Maurizio Caprino. No, probabilmente intendeva una microcar, quindi un quadriciclo leggero, quelle, ecco. Di quelle che si diceva un tempo senza, erano senza patente, adesso invece occorreva la patente AM. Ecco, quindi è questo il punto. È questo il punto, sì. Che tipo di implicazione ha questo esame, Patella, per conseguire la patente AM? Credo che la signora, se ho capito bene, la patente dell'auto ce l'ha, quindi a posto. È abilitata in automatico. Se invece parliamo di una persona che da zero si approccia alla patente AM, quello che prima era il cosiddetto patentino, sostanzialmente non è cambiato molto, nel senso che nell'ultimo anno già il patentino era andato a regime con l'esame di guida, quindi un esame teorico particolare per quella categoria, un esame di guida particolare col veicolo, ciclomotore a due ruote o ciclomotore a quadriciclo leggero, quindi ciclomotore a quattro ruote, invece del patentino che era un documento tutto italiano, verrà rilasciata una patente AM, che è una patente di carattere europeo, quindi riconosciuta come patente a tutti gli effetti. Certo, quindi ecco. In sostanza, no, per dire, la patente B prevede una sottocategoria AM che è legittimata a coesistere. Esatto, con sì, ecco. È uno dei pochi casi in cui c'è l'assorbimento. Chi invece dovesse prenderla questa patente, perché oltretutto ci sono anziani che perdono la patente per varie ragioni, soprattutto fisiche, se si sono rimessi a posto con la salute possono anche solo prendere la AM, e diciamo c'è un'agevolazione rispetto alla B, che consiste nel fatto che per gli esami non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi, quindi possono fare tutto da privatisti. L'ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture proprio venerdì scorso. Benvenuto dalla provincia di Torino, tanto per continuare ad analizzare un po' dei casi al limite, così almeno accontentiamo tutti. Benvenuto, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica rapidamente, che siamo in chiusura. 73 anni, da circa 20 anni rinnovo regolarmente la patente alla commissione provinciale, perché avevo avuto un piccolo problema cardiaco. Se è cambiato qualcosa? È una patente speciale la sua, non so se no, per queste... No, è una patente B normale, rinnovata tramite la commissione. Ecco, quindi c'è, come dire, un'intermediazione differente. Andiamo al dottor Ancillotti, se ci può aiutare per questo caso. Sì, come dicevo prima, con una modifica che è stata introdotta nel testo di riforma, ancora prima che si entrasse in vigore, è stata... si è semplificato, quindi potrà continuare a ottenere la certificazione medica necessaria per il rinnovo della validità presso il medico competente della USL, dell'ASL sua locale, senza necessità di andare in commissione medica locale, salvo che in quella occasione non venga specificatamente disposto per il suo caso particolare, però non c'è necessità di sostenere la visita medica presso la commissione medica provinciale. Maurizio Caprino, abbiamo chiuso la nostra trasmissione, l'ultima raccomandazione al volo per i nostri ascoltatori alla guida dalla mattina alla sera. Beh, sempre pensare che la patente non, diciamo, è come un porto d'armi, però non abilita a fare tutto, cioè il fatto di avere la patente non autorizza poi a fare tutto, perché soprattutto quando passa del tempo, si pensa sempre che sia il neopatentato il problema, e le statistiche dicono che è così, però chi è patentato da tanto tempo spesso non ricorda determinate regole anche basilari, altre non ne conosce, perché nel frattempo sia le regole sia la tecnologia si è evoluta, quindi approcciarsi sempre con molta umiltà, cautela e aggiornarsi anche per conto proprio. E guidate tutti con prudenza, perché questa è una raccomandazione evergreen. Grazie a Maurizio Caprino, dottor Massimo Ancillotti, ad Emilio Patella per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani per la terza puntata 2013 dei martedì del lavoro, parleremo dei voucher. Buona giornata a tutti.